vorrei aggiungere due velocissime considerazioni, una molto incoraggiante e una un po' meno rispetto a questa prospettiva. Quella un po' meno incoraggiante è che chiaramente, guardando al mercato israeliano, si deve affrontare una concorrenza completamente diversa da quella che si incontra sul mercato palestinese, perché è importante tenere presente che Israele produce dei vini di alta qualità, soprattutto in Galilea e soprattutto nel Golan. Quindi se noi pensiamo ai vini bianchi, com'è? Occupato, certo, abbiamo detto chiaramente. Comunque non solo in zona occupata, ci sono moltissime aziende anche in Galilea che fanno degli ottimi prodotti, Andrea l'ha visitati, abbiamo fatto. Quindi è chiaro che andare a cercare il consumatore che non ha necessariamente sensibilità sociale, ma che compra il vino per bersi una bottiglia, è chiaro che lo devi convincere o con il prezzo o con la qualità, e laddove la concorrenza è altissima, la cosa è più difficile. In Palestina virtualmente non esiste concorrenza, e quindi questa ha permesso anche, devo dire, negli anni difficili, soprattutto i primi della seconda intifada, dal 2000 al 2004, alla cantina di rimanere aperta, nonostante lavorasse in condizioni veramente estreme, molto più difficili di quelle di ora. E comunque è chiaro che qualunque ristorante, anche non cristiano, cristiano o non cristiano, volesse servire del vino, doveva rivolgersi a Cremisan, e bene o male una situazione di monopolio naturale che ha anche aiutato. Quindi questa è sicuramente una grossa sfida per Andrea, che però non lo deve senz'altro intimorire. Però la sfida di guardare al mercato israeliano è oggettivamente grossa, perché hai a che fare non con etichette da poco, insomma. La notizia invece, la considerazione secondo me molto incoraggiante, è quella molto reale, molto concreta del modello Taibe, della birra Taibe, che forse qualcuno di voi conoscerà se siete stati nella zona. Ora, la birra Taibe è una birra eccellente, è una birra prodotta in un villaggio, anche questo cristiano, che si trova vicino a Ramallah, si trova a 15 km da Ramallah, ed è un villaggio appunto cristiano, e quindi anche lì la produzione di una bevanda alcolica è necessariamente legata alla... Non è che noi vogliamo così, forse vi è sembrato che abbiamo calcato un po' la mano sui tratti religiosi delle comunità, si parla di cristiani, salesiani, musulmani, ma gioco forza quando si ha a che fare con questo territorio, sono delle etichette che sì, vengono anche attaccate un po' frettolosamente, però bisogna tenerle in considerazione molto seria. E quindi ecco che Taibe è una realtà molto molto interessante, che tutti noi stimiamo molto, perché la birra Taibe è veramente buona, tant'è che essa stessa, come Cremisan, viene appunto prodotta all'interno dei territori e distribuita nei territori, ma ha una buona distribuzione su Gerusalemme Est e anche in Israele. Io ho bevuto birra Taibe ad Akko e ad Haifa, città miste israeliane sulla costa, assolutamente israeliane, però con una importante componente araba della popolazione, e quindi ci sono ristoranti arabi che riescono a importare Taibe, fusti sia alla spina che in bottiglia, di birra Taibe. Quindi la birra ce l'ha fatta, ecco perché non il vino. Secondo me, ecco, le prospettive ci sono. È vero, da questo punto di vista, che la birra Taibe se la deve giocare con la birra Maccabi, che è molto più scadente del vino del Golan, tornando al discorso qualità. Quindi è facile sentirsi dire anche dagli israeliani che la bevono che è più buona, perché lo è. Infatti io credo che la qualità premia, e in questo deve dare sempre grande fiducia. E quindi ecco, speriamo che comunque sull'onda di questi esempi anche positivi, anche Cremisan riesca a superare il muro.